capisci benissimo. Chi è la schiva sai, arrivi alle spalle, lo colpisci a tradimento. Come poi allo zianto, che mi accolo lo zianto, che la merda. Ti verrò a prendere, dalla farò pagare. Chi ti fa la fraga, perché non ti aspiro. Ma lui non può sapere.